Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti al notiziario anticlericale. Ricordiamo il sito giordanobrunomi.wordpress.com. Per il calendario anticlericale 2024 già in preparazione, info@sicilialibertaria.it. Ricordiamo il libro interessante anticlericale della settimana, Le Pages Noires du Christianisme. E c'è una copertina satirica sui crimini sanguinari della Chiesa. Nous avons laissé une trace dans l'histoire, dove si vede appunto un libro che trasuda sangue. Iniziamo dai misfatti clericali dal Corriere della Sera del 18 giugno. Figlie di Ipazia sempre. Scienziata pagana del V secolo fu uccisa da fanatici cristiani. Il suo coraggio ci ispira ancora. E autore Dacia Maraini, e si parla anche di Giordano Bruno, eroina del libero pensiero paragonata a Giordano Bruno. Il suo nome per me significa riferirmi a un modello di gioiosa e serena fermezza d'animo, quello che ho potuto conoscere in famiglia. Passiamo al Fatto Quotidiano del 19 giugno 2023, unto del Signore. La satiriasi, l'anticomunismo e i valori non negoziabili, clericali assolvono Berlusconi. Silenzio sui suoi trascorsi criminali, le 9 volte prescritto, eccetera, eccetera. Si critica la complicità clericale con Berlusconi. E vignette apparse sempre sul Fatto Quotidiano, le signorine in calzamaglia alla lettura del testamento di Berlusconi. Misfatti clericali, residuo di acido nell'acqua benedetta, bimba rischia al battesimo. Questi ministranti, questi chierichetti distratti, avevano preparato un'acqua battesimale che invece era acido corrosivo. È avvenuto in Sicilia questo misfatto, Villa Franca Tirrena. Don Euro. Pena ridotta in appello, escort ed estorsioni, pena ridotta a 6 anni. E qui si ricorda i crimini di questo prete toscano che ne ha fatte di tutti i colori. Genova, eroi senza maschera, il bancomat non gli ridà la carta, il furioso cliente cattolico lo punisce a colpi di crocifisso. Questo cattolico che circolava con un grosso crocifisso, e invece di usarlo per pregare, Fatto Quotidiano del 19 giugno 2023, l'ha usato per colpire un bancomat che funzionava male. Polonia, estremisti cattolici si scagliano contro il bus 666 che parte da un paesino della Polonia, è il maligno, e la linea cambia denominazione, fanatismo cattolico. Misfatti della Chiesa. Confermati in appello la condanna di Livio Graziano, un prete, ha violentato un bambino di 12 anni, i preti pedofili. Giovedì 20 giugno 2023 da retelabuso.org. La quarta sezione penale della Corte d'Appello di Napoli, presieduta eccetera eccetera, con i consiglieri eccetera eccetera, ha confermato la condanna a 8 anni di reclusione per Don Livio Graziano. Poi dunque... A un banchetto di propaganda del 17 giugno ho incontrato una signora milanese che mi ha raccontato che da piccola era stata molestata dal parroco della sua parrocchia. Sempre Milano, la vita avventurosa di Giuseppe Gorani, dal Manacco Milanese 2023. E questo povero signore da bambino era stato messo in un convento, in un collegio conventuale. Entrato a 6 anni nell'Imperial Regio Collegio dei Nobili di Milano, dei padri Barnabiti, vi rimase per 10 anni, subendo, come racconterà nelle sue memorie, le morbose attenzioni dei frati pedofili. Festival del giornalismo 2023, la Chiesa, scandali di pedofilia, da retelabuso.org del 20 giugno. Ospiti dell'associazione Leali del Giornalismo, vari esponenti appunto di questa associazione contro i preti pedofili hanno potuto parlare. Retelabuso.org del 18 giugno, sacerdote a processo, avrebbe cercato di adescare minore, giovane sarà sentita ancora. Gela, sarà nuovamente sentita la giovane che sarebbe sfinita al centro delle attenzioni criminali di un prete. Evitare i preti in ogni maniera. Dalla prealpina del Varesotto del 21 giugno 2023. Accordo per Don Mauro Legnano, sacerdote accusato di abusi su una quindicenne. L'episodio, insomma, praticamente i soliti tentativi di amorazzi con bambini dei preti, e alla fine è stato denunciato e alla fine c'è stato un patteggiamento, quindi il prete ha riconosciuto la sua responsabilità. Don Mauro Galli si dichiara colpevole e patteggia, sempre questo caso qui, da reteLabuso.org, giovedì 20 giugno. Questa mattina l'udienza, dopo che la Cassazione ha rimandato in riesame in appello per il caso di Don Galli, prete pedofilo. Sempre preti pedofili, violenza sessuale, ex prete a giudizio, presunti abusi ai danni di immigrati. Ascoltate nuove testimonianze, 22 giugno, nuova udienza ieri mattina, nel processo a carico dell'ex sacerdote di 56 anni che è sotto processo per alcuni casi di violenza sessuale compiuti ai danni di giovani immigrati. Al centro di accoglienza Don Bosco. Poi su Giallo, settimanale del 21 giugno 2023, Emanuele e Mirella Gregori sono state sepolte a Castel Sant'Angelo dai preti e dai loro complici, nei sotterranei del mausoleo sono finite. Crimini clericali del Vaticano. La vera biblioteca degli alberi, la curia la vuole abbattere. Fatto Quotidiano del 15 giugno. Si attacca alla chiesa e si parla di questa casa del giovane, la Madonnina, struttura che offre rifugio ai minori abbandonati, assistenza di proprietà della Curia milanese e al centro di discussioni perché la chiesa vuole abbattere per pare per una speculazione. Ancora tutti tacciono il nome del maestro di religione. E arrestato qualche tempo fa appunto per fatti di pedofilia a Milano. Totale silenzio. Un romanzo anticlericale di sapore antivaticano, Peter Ogenkamp, Cospirazione Vaticano, un grande thriller sulle truci vicende clericali del Vaticano. Altre notizie anticlericali, World Humanist Day. Happy World Humanist Day, Pierino, cioè mi ha mandato questo messaggio di saluto Humanist International, che è un'associazione di atei che all'estero, come sapete, veniamo chiamati umanisti, perché abbiamo al centro l'uomo e non Dio. Nel baratro del potere assoluto, da tutto Milano, Repubblica del 25 maggio. Si parla ancora del film Rapito, di questo crimine, clericale. Il manifesto del 13 giugno, non una di più, piazze polacche per l'aborto. In Polonia si muore sempre più spesso di interruzione volontaria di gravidanza. Quando ci sono problemi per una gestazione che non va bene, cosa fanno i ginecologi polacchi? Lasciano morire la donna e salvano il bambino. Insomma, chiaramente le donne non sono contente. Allora, Fatto Quotidiano del 16 giugno, l'omeria del vescovo Delpini su Berlusconi è stata proprio ridicola e complice. Articolo polemico di Daniele Luttazzi. Da Tutto Libri della Stampa del 17 giugno 2023. La moglie del prete spretato tiene nel suo boudoir il crocifisso e una Venere nuda. È un romanzo, uno scritto, un libro di sapore anticlericale. Divorato da passione e sensi di colpa, Don Eustace lascia la tonaca per anni. Andiamo avanti con laicamente.org da Torino. In Veneto niente ostacoli legali al suicidio assistito. Bene, una buona notizia. Allora, sul Corriere della Sera del 18 giugno si parla di Carlo Porta e quindi delle sue dissacranti poesie di sapore anticlericale. Ti 17 giugno, su Rai Storia si è parlato della Repubblica Romana alle 6:20 della mattina e del sequestro Mortara. Mazzini e l'Italia unita come profezia morale dalla Repubblica, pagina 31 di pochi giorni fa. E qui si ricorda la figura di Mazzini e il suo Dio patria, eccetera. In realtà il suo Dio è un Dio senza preti, ricordiamo, e soprattutto senza papa, quindi un Dio anticlericale. E l'Italia come unità culturale, senza papi, mi raccomando. La religione era vista come fattore di progresso civile. Purtroppo, per colpa del Vaticano e dei papi, la religione è diventata un fattore di regresso, specialmente durante il fascismo. E il nazismo in Germania a causa dei concordati che la Chiesa firmò con queste dittature. Si parla anche di Giordano Bruno e della sua statua in Campo dei Fiori sulla Repubblica. Poi mi è capitato nei miei studi bibliofili questo opuscolo di Memorie storiche Foro Giuliesi, Indice Generale, e nel numero del 1954 si parla di una rivolta feudale contro il patriarca Bertrando. Sapete che allora c'era il patriarca di Aquileia che comandava in maniera col feudalesimo, quindi tutti i suoi cittadini erano in realtà dei servi del patriarca, e sia dal punto di vista religioso sia dal punto di vista politico, e lui poteva farne praticamente quello che voleva. Poi su Rai Scuola, canale 57, alle 6, pochi giorni fa, si è parlato dell'evoluzione, fondamentale il ruolo dei funghi, altro che di Dio. In conclusione, sulla presunta resurrezione di Gesù, ecco, il Fatto Quotidiano il 19 giugno ci fa presente un caso simile accaduto in Ecuador, senza bisogno di tirare miracoli. Lo dichiarano morto, ma inizia a bussare nella bara durante il funerale. Non era affatto morto. E quindi questo può essere il caso di Gesù che è stato sepolto, che in realtà non era morto. E concludiamo con una frase anticlericale: la pedofilia ecclesiastica è un fattore strutturale e non occasionale della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. E dal mio calendario anticlericale 2023, 25 giugno 1000 25 giugno 2021, sesso con minori sul letto del prete nell'oratorio di San Martino di Bareggio, 4 anni ad un parrocchiano pedofilo. 24 giugno 1948, la Caritas Internationalis procura documenti falsi per far scappare in Argentina il boia nazista Effelman. 23 giugno 2021, disegno di legge Zan contro l'omofobia. Inaudita interferenza del Vaticano, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo, arrivederci alla prossima puntata del notiziario anticlericale. Prete, se lo conosci, lo eviti.